Capitolo VI. Come l'anima cresca in Maria. Quando l'anima ha imparato a rimanere unita alla sua Madre Celeste con una preghiera continua, ha posto la condizione fondamentale della sua crescenza spirituale. In forza di questa preghiera attinge nell'anima di Maria il nutrimento e si compie così in essa il lavoro di assimilazione indispensabile per crescere. Ma è necessario che tu segua da vicino questo sviluppo vitale e che tu ti renda conto della parte dovuta alla madre tua e di quella che viene da te. Permetti dunque che io ti ricordi una verità fondamentale. L'alimento spirituale che ricevi incessantemente dalla tua unione con la madre tua è la carità, la grazia santificante, una partecipazione alla vita di Gesù. Questa grazia scorre nell'anima tua per diversi canali. Ti è comunicata o restituita o aumentata dai sacramenti ai quali Gesù Cristo comunica la sua suprema virtù. Ma nessuno riceve i sacramenti o può riceverli con frutto se Maria non ha disposto le occasioni, preparato il cuore e pregato Dio di gratificarne l'anima. Per far fruttificare questo capitale di carità, Dio infonde nell'anima ispirazioni, lumi, energie. Sono tocchi subitanei, moti soprannaturali chiamate grazie attuali. L'anima reagisce sotto quel tocco celeste. Coopera all'azione che viene dall'alto, ma talvolta trascura l'invito divino e ricusa il suo aiuto. Donde vengono le grazie attuali? Lo Spirito Santo ne è l'autore e le comunica. Ma nella loro distribuzione vuol dipendere dalla sua sposa, dalla madre di Gesù e degli uomini. Essa deve scegliere queste grazie nel proprio cuore e adattarle alla necessità di ogni anima. È l'ufficio della madre tua, ma anche tu hai la tua parte di lavoro. Sei dotato di vita, di sensibilità, di ragione, di volontà, e quando ricevi un sacramento devi metterti nelle disposizioni richieste. Devi dunque cooperare con tua madre, prepararti a ricevere perfettamente e frequentemente i sacramenti che possono essere ripetuti. Hai mai pensato alla grande importanza di questo fattore per crescere spiritualmente? Ti disponi soprattutto con cura ad accostarti alla penitenza e alla Santissima Eucaristia? Le ricevi spesso quanto ti è permesso? E dopo, che accoglienza fai alle sollecitazioni della grazia attuale? La Madonna è in perpetuo contatto con l'anima tua. Essa ti avverte, ti incoraggia, ti illumina, ti fortifica, ti ispira il gusto della mortificazione, ti eccita a pregare, a risparmiare il tempo, a fuggire le conversazioni inutili, a vuotare il tuo cuore degli affetti estranei, a praticare la vita ritirata e nascosta. Il latte della grazia scorre nell'anima tua, ma senza la tua cooperazione non sarà assimilato alla tua sostanza. Qual vigilanza e qual docilità dovresti avere per non perdere questo alimento soprannaturale, il quale fa parte del tesoro delle grazie contenute nell'anima della madre tua. Chiedile perdono e ricomincia la tua vita spirituale. Sii docile alla sua azione e quando non avrai più forza, supplicala a dartela. O quanta pazienza deve esercitare prima che tu abbia acquistato quel grado di docilità che le permetterà di formare Gesù in te. Devi implorare Maria perché ti ottenga una costante buona volontà, ossia una disposizione immutabile a seguire sempre gli inviti della grazia, anche se questa ti chiamasse alla sofferenza, all'umiliazione, alla morte. Non cessare di chiedere tal grazia, perché senza di essa un'infinità di soccorsi che Maria ti otterrà rimarrebbero senza risultato. Il lavoro di assimilazione va di pari passo con un lavoro di depurazione. La vita di Gesù e quella del vecchio uomo sono opposte. Sara si sforza di bandire dalla casa il figlio della serva che corrompe Isacco, così la Divina Madre vuole scacciare dall'anima quegli affetti sregolati, quei desideri umani, quei legami del cuore, quell'egoismo, incompatibili con la santità del figlio suo Gesù. La madre cristiana si affligge vedendo spuntare nel suo figliuolo, fino dalla prima età, inclinazioni viziose e si sforza di correggerle. Quanto più si rattrista la madre dell'anima nostra, la quale vede distintamente tutti i difetti che riempiono il nostro cuore, segue tutte le conseguenze di un'abitudine cattiva non combattuta, perciò ci stimola sempre alla lotta. Questo lavoro di depurazione di noi medesimi si compie per mezzo di consigli salutari, di rimorsi di coscienza. È un rimedio che la madre tua ti offre, rimedio talvolta amaro, ma necessario, e devi accettarlo dalle sue mani con riconoscenza. Senza la tua cooperazione, infatti, non si farebbe nulla nella tua vita spirituale. Bisogna dunque, prima di tutto, affidarle la tua risoluzione fondamentale, quella di combattere senza tregua qualunque colpa volontaria. Quando ti consacri a lei ogni mattina, con l'anima tua e tutte le tue potenze, con il tuo corpo e tutti i suoi membri, rimettile pure questa risoluzione. Chiedile, al tempo stesso, di aiutarti nella lotta. Dopo, nella giornata, quando la tua volontà si trova al caso di scegliere tra un peccato o un atto di virtù, volgiti presto verso Maria. Madre, aiutami, dammi la forza di non soccombere. Nel momento della meditazione, protesta che vuoi vivere senza peccato, simile a tua madre, puro, umile, mite, obbediente. Poi aggiungi sempre una preghiera. La supplica deve essere il respiro della tua vita. Infine, chiedile incessantemente perdono della tua fiacchezza. Madre, perdonami, sono il tuo figliolino, ma sono debole, fortificami. Devi vivere così in uno spirito di compunzione non interrotta, chiedere sempre perdono a Gesù per mezzo di Maria. Madre cara, coprimi con la tua purezza. Ripara quello che io ho sciupato. Tale spirito di compunzione abituale finisce per creare nell'anima una grande purezza. La tiene immersa in un'atmosfera di umiltà. Crea in essa quella disposizione di anima che si chiama infanzia spirituale ed è tanto gradita a nostro Signore. Perciò, tutto questo lavoro di depurazione si riepiloga in tre principi. Devi affidare incessantemente a Maria la tua risoluzione di vivere senza peccato pienamente volontario. Nella lotta devi volgerti sempre verso tua madre e chiedere soccorso. Devi vivere abitualmente in uno spirito di compunzione vicino a Maria, pregandola di purificarti incessantemente e di ottenerti il perdono di Gesù. Il lavoro richiesto per crescere è di lunga durata e si fa in modo misterioso. La particolarità del bambino è di essere nascosto. In tutta la natura, l'azione fecondatrice e vivificatrice è sepolta nelle tenebre. L'Apostolo ci dice che la vostra vita sia nascosta con Gesù Cristo in Dio. Colossesi 3:3. Gesù, il primogenito, è egli medesimo, il mistero di secoli. È stato nascosto per tutta l'antichità, eppure viveva, perché era ieri come oggi, ma viveva nascosto in seno al mondo come un seme di grano gettato in terra. È stato nascosto nella sua vita mortale. Soltanto pochi discepoli lo riconoscevano per Redentore, nonostante innumerevoli miracoli e 3 anni di predicazione. Dopo la sua ascensione vive egualmente nascosto. Vive nella sua Chiesa, ma questa è sconosciuta o odiata. Ha voluto essere nascosto nel suo sacramento di amore. Un Dio abita giorno e notte in mezzo agli uomini, moltiplica i miracoli perché tal presenza sia reale su tutti gli altari del mondo. Eppure gli uomini passano accanto a questo mistero indifferenti, se non ostili. Vuole essere nascosto in noi. La vita soprannaturale è una cosa talmente magnifica che nulla nell'universo può esserle paragonata. Eppure il mondo corre accecato verso le bellezze terrene. Il giusto, invece, il cui splendore rapisce il cielo, è disprezzato. Gesù Cristo vive in lui, nascosto, umiliato. Ebbene, se vuoi crescere in Gesù, devi condurre una vita nascosta, devi essere umile, non lasciar trasparire in te nulla di straordinario. Devi cercare l'ultimo posto. Il tuo santuario, la tua dimora, è la Madre Divina, la quale ti forma in segreto. Devi rimanere in lei e da lei ricevere la vita e la sussistenza. Devi vivere solo, nascosto in essa, occupato di Dio. Così è vissuta la Madonna, ignorata anche dai discepoli e dai primi cristiani. Così vive anche ora nella Santa Chiesa, in ciascuno dei suoi figli, ma la sua azione è coperta di ombra. Tutti i cristiani la chiamano madre, ma il senso infinitamente profondo, il significato ineffabilmente consolante della sua maternità, rimane velato alla maggior parte delle anime. Accetta la vita nascosta che sei chiamato a condurre. Dimenticati, non parlare a nessuno del tuo valore, delle tue qualità. Nasconditi e vivi in lei. O Gesù, come tu ti sei chiuso nel santo tabernacolo, nascosto sotto umili specie, così io voglio passare la mia vita nel seno del tuo tabernacolo vivente, di colei che è madre tua e mia. Ti abbandono, Maria, tutto me stesso, il mio corpo e l'anima mia, con tutte le loro potenze e tutti i loro atti. Tutto è tuo, tutto è cosa tua e tua proprietà, estranne la lode che desideri. Con te, buona madre, voglio vivere e morire. La mia morte e la mia dissoluzione saranno un nuovo atto di vita nascosta. Ti abbandono fin da ora, o madre mia, le ossa e le ceneri del mio corpo. Quando l'anima mia, come atomo impercettibile, vivrà per mezzo tuo in seno a Dio, tu darai ancora una voce alla mia polvere. Quella voce sarà un cantico di amore e di umiltà. Ti dirà sin nell'eternità che ho accettato in precedenza di essere cenere per unirmi alle umiliazioni di Gesù e alla vita nascosta della madre mia. Thank you. mediante questa vita nascosta nell'anima di Maria, arriverai ad una grande somiglianza con lei. I figli prendono sempre dalla madre. Il latte della grazia, di cui la Vergine Immacolata nutre i suoi figli, è la sostanza più pura della propria vita spirituale. Qual meraviglia, dunque, che questa Madre Divina riproduca in ciascuno dei figli il suo carattere, la sua fisionomia, le sue virtù, le sue qualità, i suoi desideri, le sue speranze, i suoi gusti, le sue preferenze. Per un influsso misterioso si impadronisce dello spirito del suo figliolo, ne trasforma gli apprezzamenti e le idee, si insinua nella sua volontà e gli infonde il proprio volere. Penetra anche nelle facoltà sensibili e comunica loro le proprie commozioni. L'anima di Maria tocca la tua non con un contatto superficiale, ma con un contatto profondo, particolare agli spiriti, e che arriva sino all'intimo, penetra le facoltà, ne purifica e ne regola gli atti. Questa azione misteriosa della madre tua è quella che ti ha dato prima la vita spirituale. Essa sola, insieme allo Spirito Santo, ti ha generato. Essa sola ti nutre e fa colare goccia a goccia il latte della grazia nell'anima tua, per formarla e trasformarla a propria immagine. Oh, se tu non disturbassi la sua azione, se tu non permettessi ad alcun soffio impuro del di fuori di venire a turbare quel calmo e virginale influsso di Maria sull'anima tua. Sii docile alla sua azione e lasciala compiere in te l'opera sua. Non cessare di unirti a lei, di penetrare nell'anima sua, di contemplare quel capolavoro di Dio. Gesù ha voluto farne il modello di tutte le virtù. Egli, dice San Bernardo, ha comunicato per prima cosa a sua madre le qualità e le inclinazioni che voleva ereditare da lei. Ha voluto che fosse vergine per nascere immacolato da colei che era senza macchia. Ha voluto che fosse umile per nascere da lei, umile e mite di cuore. Parimente ha messo nella Madre Nostra tutte le virtù di cui voleva vederci rivestiti, affinché, insieme al latte della grazia, instilli in noi tutte le sue amabili qualità. Ha voluto renderla incomparabilmente bella e buona, affinché i nostri occhi e i nostri cuori non potessero staccarsi da lei. Essa è tenera, affettuosa, umile, paziente, piena di compassione per la sventura e di indulgenza per la debolezza. Essa è vergine, la vergine per eccellenza. Riunisce in sé tutti gli incanti della verginità, la dolcezza, la bontà, l'innocenza, la purezza, l'ingenuità, il candore, le grazie. Ha attirato sulla terra, con la sua bellezza, il Verbo di Dio e l'ha chiuso nel suo seno. Ha accolto nelle sue braccia materne il suo Dio, il suo Creatore. L'ha stretto al suo cuore e l'ha nutrito con il suo latte. Il Figlio di Dio, il Verbo divenuto Figlio suo, ha posato la bocca divina sulla sua fronte virginale, ripetendo: «Madre mia, ti amo». O quanti cuori ha attirato a Gesù Cristo la contemplazione di questa creatura tutta luce e grazie. Quanti poveri schiavi del vizio, vedendola, sono stati presi da un santo rispetto e da una vergogna salutare e hanno rinunziato al peccato per meritare di essere amati da lei e divenire suoi figli. Buona madre, compi l'opera tua. Rendici simili a te, dacci la tua bontà, la tua umiltà, facci parte della tua innocenza. Forma in noi Gesù, perché quanto più Egli vive in noi, tanto più sarai nostra madre, tanto più Gesù ti amerà attraverso di noi e tanto più amerai Gesù attraverso il nostro cuore.